Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio di Bruxelles, da Annalisa e da Roberto Guidi in regia. Ciao Roberto. In collegamento dovrebbe esserci Alessandra. Buonasera Alessandra. Buonasera Annalisa e buonasera ai nostri amici radioascoltatori. Dunque, cari radioascoltatori, Giro di Boa continua a seguire gli avvenimenti in Siria, dove la situazione è precipitata, si è aggravato ad almeno 93 morti il bilancio dei bombardamenti delle forze di sicurezza siriane sulla città di Homs, sotto attacco da 6 giorni. Sono poi 105 gli uccisi in tutto il paese, si registrano scontri per esempio ad Aleppo e nei sobborghi di Damasco. Lo riferiscono con una lista dettagliata e aggiornata i comitati di coordinamento locale degli attivisti anti-regime. Il portavoce dell'UNICEF ha addirittura parlato di 400 bambini uccisi negli ultimi 11 mesi di violenze in Siria. Gli Stati Uniti hanno chiuso l'ambasciata a Damasco per motivi di sicurezza, l'Italia ha richiamato l'ambasciatore per consultazioni. E intanto il 4 febbraio scorso Russia e Cina hanno posto il veto ad una risoluzione dell'ONU che avrebbe condannato il regime siriano, escludendo però un intervento armato. Quindi la situazione è peggiorata, la comunità internazionale guarda con crescente preoccupazione a quanto sta avvenendo. Cerchiamo questa sera di fare il punto della situazione con i nostri ospiti in collegamento. Sì, Annalisa, i nostri ospiti sono già in collegamento con noi, si tratta di Lorenzo Trombetta. Lorenzo, ci senti? Mi sento bene, sì. Sì, buonasera Lorenzo, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Lorenzo Trombetta è collaboratore dell'ANSA da Beirut, corrispondente di Limes per Siria e Libano, scrive per La Stampa, L'Avvenire e Radio Televisione Svizzera Italiana. Nel 2005 ha pubblicato per Editori Riuniti Siria, il nuovo Medio Oriente, vive tra Libano e Siria dal 1998 con brevi soggiorni in Europa. Il secondo ospite è anche lui già in collegamento con noi, si tratta di un amico di Giro di Boa, Antonio, ci sei? Sì, eccomi qua. Buonasera Antonio, grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Come i nostri amici ascoltatori già sapranno, Antonio Ferrari è da oltre 30 anni inviato speciale al Corriere della Sera, si occupa di una videorubrica Voci dal Vicino Oriente su Corriere.it ed ha intervistato tutti i maggiori esponenti del Medio Oriente, da Arafat a Sharon, da Gheddafi a Hussein di Giordania, da Bashar al-Assad a Mubarak. Antonio è in collegamento con noi da Atene. Dunque io avrei una prima domanda per entrambi gli ospiti di questa sera. Annalisa citava nell'introduzione che sono 11 mesi che le rivolte in Siria sono ormai cominciate e c'è un po', non siamo sicuri di quello che sta succedendo in quanto i giornalisti stranieri non possono entrare nel paese. Per cui io mi domando come sia possibile fare delle stime reali e credibili di quello che sta succedendo, soprattutto delle vittime che ci sono. Lorenzo, sul tuo sito tu citi che ci sono 7.559 persone uccise, tra cui 5.993 civili e ben più di 18.000 persone attualmente arrestate. Com'è possibile fare queste stime? Sì, come spiego nel sito, innanzitutto la cifra ancora non è aggiornata da oggi, ma è aggiornata 2 giorni fa. Nel sito preciso che è una fonte aggiornata in tempo reale dei comitati di coordinamento locali che hanno aperto ormai circa 6 mesi fa un sito internet che si chiama il Centro di Documentazione delle Violazioni in Siria, che è in arabo, quindi soltanto chi sa l'arabo può decifrarlo, e giornalmente pubblicano non soltanto un numero, tot civili uccisi, tot persone uccise, tot militari, ma pubblicano, quando dico una lista dettagliata, mi riferisco a nomi e cognomi, età, luogo dell'uccisione, luogo anche di nascita, da dove proveniva la persona, perché in molti casi si tratta di militari disertori che si trovano a operare molto distanti dal luogo di nascita. In molti casi, non sempre, gli attivisti pubblicano in ciascuna scheda della vittima, pubblicano una foto e il video amatoriale girato subito dopo o comunque prima che il corpo venga interrato, in modo da dimostrare per quanto possibile l'autenticità di quel nome e di quella vittima. Ovviamente all'inizio, quando i numeri erano assai più ridotti, era più facile tenere il conto, ma per esempio in questi giorni di di repressione molto violenta a Homs, gli stessi attivisti nel loro ultimo comunicato hanno ammesso che è molto difficile identificare le vittime e anche contarle, perché nel caso di Homs le vittime sono persone che si trovano all'interno di edifici caduti, distrutti dopo essere stati colpiti dai mortai, molte persone sono in strada e non possono essere soccorsi perché appunto gli eventuali soccorritori rischierebbero a loro volta la morte. Quindi negli ultimi giorni è più difficile di prima verificare l'esatto numero delle persone uccise, quindi cominciamo ad avere le cifre molto, ormai premettiamo sempre il termine circa, però ecco, diciamo, la lista dei comitati di coordinamento locali, per rispondere alla tua domanda, è quella che più si avvicina perché fornisce più dettagli rispetto ad altre liste. Ci sono altre liste di altre piattaforme di attivisti dentro e fuori la Siria che sono, parlano di cifre ben più alte. Forse è vero, forse no, è molto difficile. Devo dire dall'altra parte che l'agenzia di stampa siriana Sana e in generale i media governativi ufficiali non fanno un lavoro di controinformazione o comunque non contrastano questa che potrebbe essere definita una propaganda degli attivisti in modo sapiente, perché raramente forniscono i numeri aggiornati giornalmente delle vittime. Quando lo fanno parlano soltanto di militari, fornendo a volte i loro nomi, non sempre, e non danno mai cifre aggiornate di vittime civili. Comunque quando parlano di un civile ucciso a Homs, per esempio, non ci danno mai il nome e cognome, è molto raro. E io devo dire che da 15 marzo ad oggi seguo giornalmente in tempo reale sia la TV di Stato che l'agenzia Sana, che metto da parte ciascuna di queste notizie per dimostrare e rendermi conto anch'io di non sbagliarmi nel riportare le notizie. Antonio, quali le opzioni a disposizione della comunità internazionale per porre fine a queste violenze? È una situazione estremamente complicata. Io ammiro molto il lavoro di Lorenzo perché è un lavoro serio, un lavoro documentato. Sappiamo tutti che in una guerra e in una situazione di questo genere che rischia di degenerare al peggio in qualsiasi momento, e beh, e in fondo tutti gli strumenti sono buoni. A me è capitato di avere non poco tempo fa un incontro con rappresentanti anche dell'opposizione siriana e insomma erano due rappresentanti, diciamo, di genere molaico e uno legato all'estero naturalmente. Beh, insomma, io mi sono un po' raffreddato, ho sempre paura di essere poi strumento di qualche cosa. È chiaro, è evidente quello che sta accadendo in Siria, è terribile, non so se il regime potrà tenere, credo proprio di no, e a questo punto non lo so cosa potrà succedere. La comunità internazionale, la comunità internazionale sta attenta a tutto quello che è, allo scenario, ed è uno scenario molto molto complesso. Cioè, chiariamo, io l'ho già detto più volte, la Siria non è la Libia. La Libia politicamente non contava assolutamente niente. È inutile che ci giriamo attorno con le parole, questa è la realtà. La Libia era un problema prettamente economico e strategico per le riserve di petrolio, di gas e soprattutto di uranio, quelle riserve che interessavano molto alla Francia, che controlla tre delle sue miniere di uranio ai confini col Chad e con l'Italia. Ora, è evidente che la comunità internazionale deve tenere conto di tante cose. Il rapporto della Russia con la Siria è un rapporto antico, ed è un rapporto antico moltiplicato con quelle che sono, i nuovi equilibri tra trio squilibri sullo scenario mondiale. La Russia partner affidabile eccetera, però la Russia che si trova in questo momento ad avere anche una serie di confronti, no, con la controparte occidentale, quindi Russia che può essere tentata proprio dai suoi interessi, non soltanto dalla vendita di armi, ma io parlo di interessi di influenza geopolitica, a giocare una carta molto dura. Quindi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, come è accaduto, eccetera. Dall'altra parte sappiamo che la Siria, Lorenzo lo sa bene, la Siria è chiave in tutti gli scenari, è l'unico alleato che l'Iran ha nella regione, perché è retto da una componente alawita che è una setta in odore di eresia sciita, ma comunque sempre setta sciita. La Siria è anche, il regime è anche guardato con simpatia, diciamo, dalle componenti cristiane. Io ho amici vescovi con i quali sono in contatto, a Aleppo e anche da altre parti, che in fondo mi dicono, ma insomma non esageriamo, in fondo il regime, ma come io dico, come si può accettare un regime che manda e parla uno, il sottoscritto, che era creduto veramente all'inizio alla, diciamo, alla forza riformista di Bashar al-Assad le volte che l'ho incontrato e che abbiamo parlato, ci avevo creduto. Adesso non so se lui sia prigioniero di altri meccanismi oppure che abbia cambiato idea, beh, mi sembra che le cose siano diventate praticamente insopportabili. Non dimentichiamo poi che la Siria significa appunto Libano, il paese dove trombetta, dove Lorenzo vive. Sappiamo benissimo che al di là, diciamo, dei rapporti o delle imposizioni che la Siria ha posto sul Libano per decenni, beh, insomma, certe influenze continuano a sopravvivere, anche influenze economiche, anche influenze di interessi. Diciamo, l'unico corridoio per una parte del mondo arabo che poteva essere interessante per le esportazioni di libanesi era la Siria, e oggi è un corridoio praticamente chiuso a causa della situazione. Non dimentichiamo che c'è la Hezbollah, che è un movimento che ha sempre sostenuto il regime siriano, e viceversa. Non dimentichiamo che la Siria sta sulla testa da Israele, non dimentichiamo che la Siria dipende per tante ragioni dalla Turchia, e non soltanto per l'acqua. La Turchia può aprire o chiudere i rubinetti per l'intero Medio Oriente, ecco perché la Turchia diventa un paese chiave, pur non essendo un paese arabo ma solamente musulmano, per tutta la regione, e una regione molto allargata. Ma dall'altra parte c'è il fatto che la Turchia potrebbe addirittura spegnere quelle che sono le centrali che garantiscono elettricità a una gran parte della Siria. Quindi vediamo che e avevo dimenticato, stavo per dimenticare, il lungo confine con l'Iraq, che divide appunto la Siria da quel paese che a lungo, anche per ragioni politiche, è stato un avversario, nonostante avesse lo stesso partito, comunque un partito di identica formazione al potere. Quindi vediamo che le difficoltà di giungere ad un'opzione militare sono difficoltà enormi. Capisco benissimo che in questo momento, per esempio, gli Stati Uniti, anche se da un punto di vista etico uno può anche arrabbiarsi e dire altre cose, abbiano delle reticenze prima di approvare o prima di accettare la sola idea di un intervento militare del tipo Libia in Siria. Quindi Antonio, hai ricordato il contesto strategico e le condizioni che rendono difficile un'opzione militare. Possiamo pensare ad un sostegno indiretto nei confronti dell'opposizione. Leggevo oggi che i ministri degli esteri della Lega Araba discuteranno di un possibile riconoscimento del Consiglio Nazionale Siriano come legittimo rappresentante del popolo siriano nel vertice in programma domenica al Cairo. Vorrei chiedere ad entrambi chi c'è dietro questo Consiglio Nazionale Siriano, chi sono gli oppositori del regime, come sono organizzati. Gary Lorenzo, vuoi iniziare tu? Sì, allora il Consiglio Nazionale Siriano è una formazione molto composita, abbiamo una prevalenza di fratelli musulmani anche all'interno del partito, del movimento dei fratelli musulmani. Ormai si riconoscono numerose correnti, non soltanto quelle anagrafiche tra i fratelli musulmani che sono usciti dalla Siria negli anni 70-80 durante un lungo confronto anche militare con il regime di Damasco. Poi ci sono i loro figli che si trovano a ragionare in un contesto politico anche europeo, perché molti di loro sono nati in Europa, alcuni anche in Italia, molto diversi dai loro padri, quindi anche all'interno dei Fratelli Musulmani dobbiamo sempre fare dei distinguo, non immaginarli un unicum immobile. E c'è una componente liberale laica, diciamo, a cui fa capo l'attuale presidente Borhan Ghaliun, docente di sociologia politica alla Sorbona, che è un po' visto come un riformatore illuminato, sicuramente ha molte difficoltà a far valere le sue posizioni perché comunque è in minoranza, e poi c'è una componente diciamo di sinistra non proprio legata ai partiti ideologici socialisti e comunisti, che sono invece rappresentati meglio in un comitato di coordinamento che rappresenta invece l'opposizione interna in Siria, l'opposizione sempre illegale, mi riferisco a quella finta opposizione che il regime stesso ha creato. Quindi il Consiglio nazionale è stato creato anche su spinta delle cancellerie occidentali, che dopo mesi di repressione, di rivolte, hanno chiesto insomma all'opposizione all'estero, ai loro interlocutori esteri, mettetevi insieme, unitevi, dobbiamo avere un unico interlocutore. Quindi in un certo senso è una, non voglio usare un termine troppo forte, ma è un po' una forzatura della richiesta, degli standard occidentali. I siriani dovevano mettersi d'accordo, dovevano mettersi sotto un unico ombrello, e lo hanno fatto in maniera un po' forzata, tanto è vero che un mese fa circa la Lega Araba aveva imposto diciamo, l'opposizione interna e quella all'estero, quindi il Comitato il Consiglio nazionale, di trovarsi d'accordo su una piattaforma comune. L'accordo era quasi raggiunto, poi di fatto dopo la firma di Burhan e del rappresentante dell'opposizione interna, gran parte del Consiglio nazionale, in particolare i Fratelli Musulmani, hanno sconfessato l'accordo, quindi mostrando tutte le divisioni che poi ci sono all'interno di questa opposizione all'estero, che ha comunque dei rappresentanti anche interni alla Siria. I comitati di coordinamento locale, che sono diciamo la base dell'attivismo in rivolta in Siria, sono rappresentati con dei rappresentanti all'estero nel Consiglio nazionale. Quindi dobbiamo immaginare comunque un panorama piuttosto composito, e io di questo però non biasimerei troppo i siriani. Molti accusano i siriani, i politici siriani, gli oppositori di non sapersi mettere d'accordo, ma dobbiamo immaginare che per 40 anni, se non per 50, perché il partito Baas è arrivato nel 63 e di fatto la restrizione alla libertà politica è cominciata già in quegli anni, se non addirittura nel 58 con l'avvento della Repubblica Araba Unita, quindi parliamo di mezzo secolo almeno in cui la società civile siriana è stata gradualmente, e a un certo punto anche bruscamente con l'arrivo di Hafez al-Assad nel 70-71, è stata bruscamente lobotomizzata, direi, io non esagero. È molto difficile che in Siria un mio coetaneo, un 35enne, un 40enne, possa avere una coscienza politica matura, possa avere idea di cosa significhi militare politicamente, essere un militante politico, o comunque avere cercare di tenere contatti, avere una rete di contatti interni o all'estero. In questa situazione, ecco, dobbiamo inquadrare il discorso sul CNS, sul Consiglio Nazionale Siriano, e sulle difficoltà che hanno nel mettersi d'accordo. Antonio, io avrei una domanda per te, però ti chiederei di essere breve, perché non abbiamo tantissimo tempo. Esiste secondo te una soluzione onorevole, credibile e realistica per Damasco per uscire dalla crisi? La cosa è questa: il regime non può andare avanti così, e forse il piano della Lega Araba mi sembrava il piano più realistico. Il paradosso è questo, che il ministro degli esteri russo aveva detto noi ci riconosciamo nel piano della Lega Araba, però poi alla fine alle Nazioni Unite, al Consiglio di Sicurezza, è stato posto il veto. E qual è il piano? Assad si dovrebbe ritirare e lasciare il posto. Allora, un'ipotesi parla di un suo vice potrebbe essere il vecchio sperimentato Farouk al-Shara, amico di suo padre, uno dei fondatori, diciamo, di quella che doveva essere in qualche modo la Siria moderna. E dall'altra parte si stanno disegnando altri possibili scenari, per esempio che Assad, se se ne dovesse andare, potrebbe trovare come dire, esilio, ospitalità proprio in Russia, oppure che si creino le condizioni, questa è una ipotesi che è stata avanzata da alcuni diciamo esperti di geopolitica, per la creazione di un enclave alawita, cioè gli alawiti sono il gruppo appunto di cui fa parte Bashar al-Assad, magari nella zona di Latakia, insomma ricreando le condizioni che proprio in Libano vedono i drusi, per esempio, in una loro situazione. È chiaro che i drusi proporzionalmente in Libano sono molto meno di quanto siano anche numericamente gli alawiti in Siria, però ecco, queste sono le ipotesi, tutto è possibile a questo punto. Io credo che la situazione non sarà chiarita in fretta, ma ci vorrà ancora tempo e pazienza. Concisa sul veto russo che, da cui abbiamo assistito recentemente, veto russo che ha sconvolto l'Occidente, ma ovviamente non l'ha sorpreso. No, appunto, non sorprendeva, non doveva sorprendere nessuno il veto russo, come ha ricordato Antonio Ferrari, che approfitto per salutare, la prima volta che dialogo con lui, anche se indirettamente, per me è stato un maestro e continua a essere un maestro. Come ha ricordato Antonio Ferrari, la Russia è un antico, insomma, un vecchio amico di Damasco, ha degli interessi nel Mediterraneo orientale, vende armi di seconda mano, quelle che butterebbe, le vende in particolare alla Siria. La Siria è il principale acquirente di armi in dismissione russe in Medio Oriente, ha anche la possibilità di usare una base aerea nel centro della Siria, una base militare che sta nella zona di Palmira, di Tadmor. Insomma, la Russia ancora evidentemente non crede che l'alternativa futura agli Assad possa garantire gli stessi privilegi che ha adesso, ecco perché continua a puntare sul cavallo Assad. L'altro giorno, quando il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov è andato a Damasco, non è andato da solo, si è portato con sé il capo dell'intelligence di Mosca. Questo significa che, al di là della visita politica, era anche una visita di tipo di intelligence. Bisognava evidentemente elaborare una strategia, e quello che vediamo in questo momento nella Siria centrale a Homs, ma anche nei sobborghi di Damasco, con una repressione ben più violenta dei giorni precedenti al veto a New York, ci fa pensare che forse la Russia abbia dato un tempo limite entro cui Bashar deve finire il lavoro sporco, perché forse poi non si può più fare questo lavoro sporco, perché se no non si capisce perché stanno bombardando non soltanto Homs ma Zabadani, carri armati anche a Dara nel sud. C'è un'escalation vera e propria, qualcuno sembra avere fretta, ecco. Da studio, un'ultima battuta per entrambi, una domanda sulle, diciamo, implicazioni economiche di tutto quello che sta succedendo, le sanzioni che sono state imposte dalla Lega Araba, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dalla Turchia alla Siria. Voi siete entrambi grandi conoscitori della regione, del paese. Ovviamente forse una domanda banale, quindi implicazioni per la vita della gente, comune, che cosa avete sentito a riguardo? Magari Antonio. Ma io purtroppo devo dare una risposta cinica, questo mi spingono anni di esperienza. Purtroppo le sofferenze della gente comune, ahimè, quando si tratta di equilibri internazionali contano molto poco, e le sofferenze della gente comune alla fine sul piatto interessano quasi nessuno, se non le organizzazioni umanitarie. E quindi da questa parte è chiaro che una situazione del genere, ricordiamo, la Siria aveva dei paesi donatori che la aiutavano, compresa l'Unione Europea, addirittura si è parlato a un certo punto di un patto di associazione con l'Unione Europea, proprio per continuare ad avere questi sostegni che oggi, anche a causa della nostra crisi economica, ma questo riguarda tutta l'area, diciamo, del Mediterraneo del Sud, sono praticamente azzerati. Quindi se sommiamo la loro situazione interna e alla situazione economica di quelli che dovrebbero aiutarli o che li avevano aiutati nel passato, vediamo che è una situazione disastrata. Quindi io temo che le sanzioni alla fine colpiscano ancora di più la gente, ma non ottengano il risultato che è quello di costringere Assad o a più miti consiglio a cambiare idea o andarsene. Tutta da parte tua? Sì, appunto, ho già detto gran parte Antonio, ma a questo aggiungerei che le sanzioni, in particolare quelle europee, oltre a quelle nordamericane, vengono decise dai paesi europei, dagli Stati Uniti, dal Canada, per, secondo me, perché non hanno altri mezzi politici, e quindi di fronte alle opinioni pubbliche che si lamentano dell'immobilismo, di fronte alla mattanza, devono comunque esercitare, devono comunque mostrare di agire in qualche modo, pur sapendo che comunque il congelamento dei beni, per esempio dei membri del regime, il divieto di ingresso di queste personalità nei vari paesi, sono tutte misure che poi di fatto non incidono ovviamente non fanno pressioni sui decisori politici, perché appunto chi aveva i propri beni se li era già messi al sicuro altrove, sapendo quello che andava incontro. Ovviamente insomma i siriani, come ha già detto Antonio, ma anche gli stessi libanesi stanno cominciando a soffrire, anche qui a Beirut le banche cominciano ad avere problemi, perché hanno moltissimi conti di siriani legati al regime, erano comunque conti bancari in Libano, quindi oggi proprio leggevo un report su questo e anche il Libano direttamente comincia a soffrire di questa chiusura. Siamo arrivati in conclusione al tempo che potevamo dedicarvi, dunque malgrado l'interessante discussione dobbiamo chiudere. Annalisa, vuoi aggiungere qualcosa d'altro? Vorrei solo ringraziare entrambi i nostri ospiti per il loro interessante contributo alla trasmissione di questa sera, augurare loro buon lavoro e ovviamente speriamo di riaverli presto ospiti nella nostra trasmissione. Grazie Lorenzo, grazie Antonio e a presto. Grazie a voi e ciao. Ciao Antonio, spero di conoscerti di persona. Grazie. Ciao. Un saluto anche da parte mia, un ringraziamento e buon lavoro ad entrambi. Buona serata. Facciamo ora una pausa musicale. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Abbiamo parlato di Siria nella prima parte della trasmissione. Giro di Boa continua a seguire gli avvenimenti nel paese. Passiamo ora al secondo tema di questa serata. Il 6 di febbraio si è celebrata la giornata internazionale per la tolleranza zero nei confronti delle mutilazioni genitali femminili, una pratica barbarica alla quale sono state sottoposte 140 milioni di donne nel mondo. Spesso le mutilazioni vengono giustificate dal contesto culturale e dalla religione, ma non si può non definire questo tipo di pratiche come violenza fisica vera e propria, inferta anche in età tenera da madri ed anziane dalla comunità di appartenenza. Questa sera Giro di Boa ha un ospite in collegamento telefonico con cui vuole discutere di questo argomento. Annalisa, ci vuoi presentare l'ospite? Sì, l'ospite di questa sera è Christine Weise, presidente di Amnesty International Italia. Christine, ci sente? Sì, buonasera. Buonasera e benvenuta. Christine è originaria della Germania, si è poi trasferita in Italia dopo aver conseguito la laurea di interprete di conferenza, ha avuto incarichi di insegnamento presso la scuola interprete di Forlì, ha anche conseguito una laurea in culture e diritti umani presso la Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Bologna. All'interno di Amnesty International, di cui è socia dal 1984, è stata attivista di diversi gruppi locali in Germania e Italia, componente del comitato direttivo della sezione italiana e delegata dell'associazione alle ultime assemblee internazionali nel 2005, 2007, 2009 e 2011. Dunque Cristina, ancora benvenuta. Dunque, Amnesty International si è mobilitata per questa giornata. Ci vuole parlare di come è nata questa iniziativa e quali sono stati i maggiori eventi? Sì, Amnesty International regolarmente si attiva proprio in occasione di questa giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili. Abbiamo fatto varie campagne anche negli ultimi anni, ricordo in particolare in Italia la campagna del 2010 dove abbiamo raccolto più di 12.000 firme contro questa pratica, chiedendo alle istituzioni europee e anche alle istituzioni italiane di intervenire concretamente, perché si tratta di una grave violazione dell'identità fisica e mentale delle donne e crea moltissimi problemi per quanto riguarda la salute, in particolare durante il parto, durante la gravidanza, e sicuramente rappresenta una fortissima discriminazione contro le donne, quindi è una pratica contro la quale bisogna agire, perché bisogna ricordare che anche in Europa ci sono molte donne che sono state mutilate, ci sono donne che sono tuttora a rischio. In Italia si stima che siano circa 35.000 le donne che hanno subito questa pratica. Quindi sicuramente bisogna agire con sensibilità, però anche con pragmatismo. Innanzitutto chiediamo che le istituzioni europee facciano una raccolta dei dati in modo da non parlare solamente di stime, ma di avere dati verificati. Chiediamo che vengano creati dei servizi sanitari adeguati e crediamo in particolare che ci sia una tutela delle donne nei confronti di ogni violenza fisica. E poi chiaramente servono anche delle linee guida chiare per quanto riguarda le donne che ricercano asilo, perché il pericolo di subire una mutilazione genitale è una motivazione per ricevere asilo politico. Su questo servono linee guida chiare. E poi chiediamo alle istituzioni europee che ci sia un dialogo con i paesi terzi su questa pratica, perché queste mutilazioni vengono applicate in 28 paesi africani e anche in una serie di altri paesi nel Medio Oriente, in Asia e anche nell'America centrale e meridionale da alcuni gruppi etnici. Quindi è importante che ci sia un dialogo che metta al primo piano la tutela dei diritti umani delle donne. Lei citava le zone in cui queste pratiche sono maggiormente diffuse, dicendo che ci sono parecchi stati africani, soprattutto nel Corno d'Africa, che sono interessati, paesi nel Medio Oriente, comunità in America Latina ed in Asia, oltre ovviamente a queste pratiche vengono anche praticate in Europa tra le comunità di migranti originarie. Ma la mia domanda voleva essere, qual è la ragione che spinge questa pratica, che è una pratica molto antica? E una seconda domanda, questa pratica è legata in qualche modo a un credo religioso oppure è trasversale? Allora, diciamo che effettivamente si tratta di una pratica molto antica, anche più antica delle religioni che sono diffuse oggigiorno. È abbastanza diffusa in zone dove è diffuso anche l'Islam, però l'Islam è arrivato dopo. A volte nelle zone islamiche questa pratica viene poi giustificata con motivazioni religiose, però queste motivazioni sono venute dopo. La pratica effettivamente esiste anche nelle zone animiste e cristiane, quindi non è legata in particolare ad una sola religione. Però si usano delle motivazioni anche religiose per continuare questa pratica culturale. Poi non sempre si sa che queste mutilazioni sono anche legate alle motivazioni economiche, perché le persone che praticano queste mutilazioni sono delle donne, spesso donne anziane nei villaggi, che vivono di questa pratica. Quindi per abolirla, quando anche un governo, perché molti governi africani poi hanno fatto delle leggi contro le mutilazioni, però quando si cerca di vietare la pratica, si incontra una resistenza fortissima da parte di queste donne che appunto basano la propria esistenza, proprio anche economica, sullo svolgimento di questa, tra virgolette, professione. Quindi ci sono anche ragioni economiche, non solo culturali, e poi chiaramente queste ragioni sono molto, molto radicate e vanno a pari passo con una forte discriminazione delle donne, cioè una negazione della libertà sessuale della donna, dei diritti riproduttivi della donna. Quindi sicuramente è troppo facile dire che basta una legge per sradicare questa pratica. Per sradicarla veramente bisogna realizzare veramente la parità delle donne, e quindi senz'altro è un percorso lungo, però ci sono alcuni provvedimenti appunto molto concreti, come li citavo prima, che vanno assolutamente presi. Cristina, siamo purtroppo giunte quasi in chiusura di trasmissione, abbiamo ancora, mi fanno cenno dalla regia, più o meno un minuto. Io ho un'ultima domanda da studio. Amnesty International e lo European Women's Lobby hanno rivolto un appello all'Unione Europea affinché si impegni a porre fine alle mutilazioni genitali femminili e ad altre forme di violenza contro le donne, chiedendo di firmare e ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Perché questa Convenzione ancora non è stata ratificata? Perché? Questa è una domanda che sicuramente non bisogna rivolgerla ad Amnesty, ma bisogna rivolgerla a tutti quei stati che ancora non l'hanno firmata e ratificata. Purtroppo anche l'Italia è tra questi paesi che non hanno ancora firmato questa convenzione, ed è invece un trattato internazionale importantissimo, perché è il primo trattato internazionale che mette davvero la lotta contro la violenza al primo piano, e sappiamo che la violenza contro le donne è veramente molto diffusa, non riguarda solo le mutilazioni, riguarda la violenza domestica e tante altre forme di violenza. Quindi si tratta veramente di una convenzione molto, molto importante, e l'appello di Amnesty International è a tutti i governi europei di firmarla e di ratificarla prima possibile. Cristina, come diceva Annalisa, siamo arrivati in conclusione, dunque non ci resta che ringraziarla per il suo interessante contributo, augurarle buon lavoro e soprattutto di continuare a fare questo lavoro. Vi ringrazio e auguro buon lavoro anche a voi. Grazie Cristina, un saluto e buon lavoro anche dallo studio. A risentirci. Grazie. Alla settimana prossima. Buona serata.